later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli non si capisce più un accidente, Cappa e Drago non riescono a dormire. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Cappa. Cappa, dormi. Sì. Allora niente. Ti dico no, dimmi. No, niente, dormi pure. Beato te che dormi. Ormai non dormo più, dimmi. No, ma figurati, chi sono io per disturbare il tuo sonno, dai. Drago, se fai così mi incazzo. Come ti incazzi? Ti dico che puoi dormire, cosa vuoi di più? Sì, ma prima mi svegli, poi mi dici che posso dormire. Sì. Non puoi lasciarmi dormire e farla finita. No, ma infatti è quello che farò d'ora in poi, non preoccuparti, dormi, no. Drago, ormai che sono sveglio, dimmi. Ma cosa? Cosa volevi dirmi? È che non riuscivo a dormire, se potevi chiacchierare un po' così. E beh, è la proxetina, eh? Cosa? Cioè, il fatto che non avete più preso la proxetina. Poi uno sbattimento, appunto. Quando è che ci procuri altra paroxetina, perché... Quando volete, basta dirlo. Sono appena passato al pavone, solo che adesso non mi ha sentito. Vabbè, per forza, è sordo, cioè... Sì, ma a volte urlo così forte che lui mi sente. Si vede che gli perforo lo strato di cerume che ha nelle orecchie e gli arriva una leggera vibrazione, no? Le orecchie del pavone. Qualcosa che lo fa voltare dalla mia parte, no? Ah, ecco. Poi invece altre volte si assopisce e non c'è niente da fare, non si sveglia. Ma perché non provi a prenderlo a roncolate? Con Tarek funziona. E perché sta nel chiosco, no? Cosa? Nel chiosco là in alto. Io non ci arrivo a roncolarlo, eh. Poteste provarci voi due. Vabbè, eh? Dai, ma posso mica roncolare un pavone, lo ammazzo. Vabbè, batti piano, no? Ma che piano? Dai, non è possibile. Al massimo lo scrollo un po', così cerco di svegliare. Va bene, allora qui venite con me, no? Ma io stavo dormendo, veramente. No, io stavo dormendo, Drago. E tu mi hai svegliato perché non riuscivi a dormire, quindi è diverso. Vabbè, ma non riusciva a dormire perché gli mancava la proxetina. Quindi non lamentarti, vai a scrollare il pavone, intanto io provo a riaddormentare. Ah, no, ma come a scrollare il pavone? Sì, Drago. Cioè, è un modo di dire. Adesso mi alzo e scrollo il pavone. Sì. Vabbè. Sì, si dice pollo. Anche così. Cosa pollo? Pollo, vabbè, vengo con te. Che palle però, che palle di pelle di pollo. Vieni, eccolo qua. Eccolo. Guarda come dorme. Vabbè, ma lascialo dormire, prendiamo dopo la proxetina, dai. Scrollalo, no? Ma no, dai, vabbè, adesso che vabbè, lo scrollo. Scrollalo! E scrollo il pavone! Sì. Il pavone, il pavone! Oh, devi scrollare il pavone! Sto scrollando il pavone! E la tua spiegazione! Oh, scrollo! L'hai scrollato? L'ho scrollato! Ma scrollalo! Scrollo. Di più! Ti hai svegliato! Oh. Attenzione, Radio Erkmenesten denuncia questo tipo di umorismo su scrollamento del pavone e si dissocia completamente da questo tipo di contenuto che non sono in linea con principi morale ed editoriale di Radio Erkmenesten. Radio Saldahari è stata comprata da Radio Erkmenesten, è diventato tutto Radio Erkmenesten. A mezzanotte sotto il mio palco a Milano in via Monte Asolo, ogni sera ci sono due che si amano, una è un trans e l'altro è il macchino sul cofano, si amano. It is later than you think. Io la proxetina l'ho scoperta grazie alla gallina che mi teneva in analisi. Io avevo le fobie sociali qui in fabbrica, eh. Allora mi sono rivolto alla struttura sanitaria interna, no? Che è una struttura pro forma, a cui non si rivolge mai nessuno. Perché qui la maggior parte degli uffici è vuota. C'è solo la porta con l'etichetta sopra, no? Ma poi dentro non c'è nessuno, eh. C'è solo ogni tanto qualche profugo rumeno che a volte riesce a intrufolarsi per dormire al caldo. Comunque, tornando al discorso iniziale, l'analisi e la terapia non sono la stessa cosa, eh? Faccio un esempio un po' così della terapia. C'è un uomo, ha una bella moglie, due bei figli, è benestante, socializza, però quando sale in ascensore va in sbattimento, di brutto. Ecco, allora lì c'è bisogno della terapia. Perché uno va dalla gallina analista e dice: senta, io sto benissimo, solo che quando vado in ascensore vado in sbattimento. Allora la terapia è mirata. E in questo caso la gallina si accovaccia davanti al pollo. E insomma si guardano, no? E parlano. Lei gli fa domande e lui risponde. Questa qua è la terapia. Invece l'analisi, l'analisi è per lo sbattimento quello così pesante che non sai neanche da dove arriva, eh. Quindi io sono andato dalla gallina. Gli ho detto: senta, ma io sono sempre in sbattimento, lei mi ha chiesto quando e come. No, sempre. E non capisco perché. C'è un buco nero dentro e mi fa andare in sbattimento. Allora con l'analisi, allora lì bisogna approfondire di più. Allora bisogna sdraiarsi, lei sta dietro, e questa è già una posizione che dici: ma io sono qua sdraiato, c'ho dietro una gallina che non parla. Perché non parla, aspetta che parli tu, perché lo scopo è quello lì, che tu parli e dopo un po' di anni capisci. Capito? E poi mica ha detto che poi quando capisci lo sbattimento passa, anzi voi lo sapete che l'ho già detto. Capisci? Lo sbattimento rimane, e allora ci vuole la paroxetina, perché poi allora analisi più paroxetina, quindi comprensione più chimica, e allora lo sbattimento passa. Capito? I need you so bad. Come into my bed. I'm in a boy band. I'm in a boy band. Polly, Polly, Polly, Polly, Polly. Io non sono mai andato in analisi, anche se credo di averne un po' bisogno. Come fai a credere di aver bisogno di una cosa, Drago, che non hai mai fatto? Cerca di essere un po' logico. Vabbè, ma da mesi e mesi non vedo altro che polli. Se lo dico a uno shrink, dici che non lo trova interessante? Beh, se lo shrink è lo shrink della fabbrica di polli, non credo che lo troverà poi tanto interessante. Stiamo usando la parola shrink come se davvero fosse chiaro il suo significato, Quindi... Le nozioni di primo di classe. La parola inglese shrink, letteralmente strizzare, viene usata confidenzialmente in area anglofona per indicare lo strizzacervelli, ossia lo psicoanalista, lo psicoterapeuta, lo psicologo. Che poi anche in aree non anglofone certi individui utilizzano quello stesso termine e oggetto di ricerca della psicolinguistica, di cui però non so un accidente. Psicolinguistica. L'influenza della cultura dominante sulla lingua dei parlanti di un'area periferica. Sto spiegando come mai noi due, come magari molti altri italiani, usiamo la parola shrink per indicare lo psicanalista. E come mai? L'ho detto prima. Ma non ti stavo ascoltando. Male. Vabbè, male, dai, non è che posso sempre stare a sentire quello che dici, Drago. Anzi, meno lo sento, meglio è. È l'influenza della cultura dominante sulla lingua dei parlanti di un'area periferica. Cos'è? La risposta alla tua domanda di prima. Ma che domanda era? E non ricordo, so solo che la risposta era l'influenza della cultura dominante sulla lingua dei parlanti di un'area periferica. Ma comunque come risposta è convincente, qualunque fosse la domanda. Com'è? Influenza della cultura dominante sulla lingua dei parlanti di un'area periferica. Certo, che bella risposta. Che cosa succederà adesso? L'influenza della cultura dominante sulla lingua dei parlanti di un'area periferica avrà un effetto indesiderato sull'ecosistema della fabbrica di polli? Lo scoprirete solo accendendo la radio domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo chomskiano allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non nuoce. L'influenza della cultura dominante sulla lingua dei parlanti di un'area periferica. Che devo dire? Ma è periferica, Allora, spec. È più periferica, però, Allora, bri. Sì, bri. Un po' di bri, sì, Bravo. Dopo ti porto al Matisse. Barumel.